Tra di voi c'è sicuramente uno scrittore o uno che si diletta a scrivere. E allora mi rivolgo a lui. Prima di mettere piede in una libreria, si deve contare fino a 6. Me lo diceva sempre mio padre. 1. 2. Non ho mai capito il perché, ma ormai mi viene automatico farlo. 3. Lui diceva che era il tempo necessario. 4. Per riflettere. Abbandonare il resto del mondo che ti lasci fuori. 6.